va solo su 10 K? Attenzione canale 10. Verso sinistra e ti fa la modulazione un bel bella. ci andava verso sinistra o verso destra? Però dove senti meglio la modulazione? Verso sinistra era più bella, verso destra rimane molto cupa. Verso sinistra era sì, mi ricordo. Infatti la tenevo qui io, e poi quella regolazione già me la faccio io, non c'è problema, mica io non metto in base alla mia modulazione. Poi una mattina vado a Roberto, mi prendo l'altro pomellino, quello cromato glielo metto, e lui vedo quello nero, capite? E io. Aspetta che mi guardo il video. Va bene, Luca, io vado a farmi la barba, che ho messo a caricare il coso, la macchinetta, che me lo abbasso un po', se no così no, è troppo lunga, ci sentiamo dopo? Sì, va bene, comunque qua ci sta a posto, KK, comunque, lo lascio acceso, dai, nel caso vuoi farlo sentire a qualcuno, dopo, d'accordo, già sono qua. Radio non attende nulla a nessuno, non aggira nessuno di questa radio. E hai visto la roba nuova, adesso che gli ho fatto quella roba frontale, poi figurati ancora più nuova. Mi serve di scorta quella come gli altri, eh? La puoi staccare, mettere da parte, attaccarti la tua, fai i suoi tibiati. Io ho già preparato la roba per vederci domani mattina. Ok, ci sentiamo dopo, là, intanto sono le 5.25, ancora è presto. Vado a farmi la barba e poi mi siedo qua. A dopo, ciao! Allora, ecco, ok, vabbè, l'importante è che hai visto tutto a posto, abbiamo fatto quello che c'era da fare e niente, la stacco e mi riattacco il mio. Ciao, fatto. Buona strada. Ehi, ciao già. Sì, stacca la pure, non mi interessa farla sentire a nessuno, già me la fotti. Il video l'ho visto, è tutto in ordine, a posto, piazzato frontale, fatto le prove, e ok. Stacca così domani mattina quando ti porto l'altra, mi porto via quella. Già, allora a farmi la barba, ci sentiamo dopo. Ciao Croccia, ciao Croccia. Avanti Luca. Ehi, ciao Gianni, ti ho sentito, dai, te la stacco questa. E così ho riattacco l'altro. Ok, dai, a tra poco già. La macchinetta scarica, devo aspettare che si carichi. Capito, Mielo? Passaggio. Cosa devi passare? Pronto, pronto, pronto, pronto, chi senti? Parlo. Pronto, pronto, pronto. Mi senti o non mi senti? Che passaggio devo fare? Lì c'è qualche problema in qualche piede. Qualcuno di dentro o qualcuno di fuori? Quello dentro di RF non è nulla, quindi c'è qualcosa nel piede. Lo ce l'ho sempre. Allora. Lo fa, lo fa. E adesso? Appena schiacciato no, poi sì. Com'è il microfono? È il microfono, qua. È il microfono? Vuoi così dire, fa anche il piede dell'antenna. È il microfono, la c'è la batteria scarica, allora. No, non è amplificato. Ah, non è amplificato. Allora, il microfono. Non ne hai altri da provare? No. Vuoi provare quello che hai a casa tua, vabbè. Prova, prova, adesso? Adesso no. Ho staccato, aspetta, un attimino, aspetta, vediamo un po'. Adesso lo sta facendo, giusto? Aspetta, aspetta. Adesso abbiamo 10. Adesso? Non lo sta facendo. Allora, come riscalda l'alimentatore non lo fa più dopo. Come? Lo sta facendo adesso? No. Ho detto, finché non scalda l'alimentatore, lo fa, una volta che scaldo non lo fa più. Che alimentatore è? Non vuoi, non ho sentito cosa del genere. L'alimentatore quando lo accendi, soprattutto sui cibi non ha bisogno di scaldare. È una scheda diretta alimentata, quindi una volta che lo accendi. Però che vuoi ti dica, vabbè dai, cioè non lo mettere bloccato qua, adesso l'ho sistemato, prova, l'ho sistemato perché l'ho inchiodato, ho toccato la vitrina di sopra, se l'ho messo a posto, perché mi era già successo, e niente, sei a posto, dai, adesso chiudo il baracchino, ci sentiamo dopo. Va bene, lasciamo qua io. Parla un po' qua, Claudio. Ok, fai fai. La conosci bene. Va bene, ma c'è poco. Sì, sì, ho staccato tutto qua. Sì, sì, no, c'è anche Luca. Sta facendo le cose, si è fatto la barba. La cosa l'ho lasciata un po'. Ogni tanto fa bene lasciarla, però mi dà fastidio, ma giù, avendo dubbio, c'è la macchinetta scarica, capito? Va bene, va bene. Sì, ascolta la radio, sempre quella di ieri, è Nasina, sa? No, non è Nasina, già va bene. Non è però la solita che io ti ho ascoltato, si è uscito molto, molto meglio altre volte, lo devo dire. Quello che non riesco a capire, boh. Non riesco a capire quello. Boh. Non lo so cosa gli è preso. Non lo so se è roba di microfono, boh. Allora, impedenza. 50. Non lo so. Boh, io i primi giorni che ti ho sentito con quel microfono infatti si ricordo che ho fatto anche i complimenti. Ho detto buon abbinamento, adesso la sento un po' tonalità troppo alta e non sento le medie bassi, capito? Anche se un'altra radio, però 60, ce l'ha di suo di avere i medie bassi, non capisco perché lì non ce li abbia. Ma c'hai per caso, come si dice, i toni anche in trasmissione con la radio, non me ne ricordo adesso. Ma chi è? Siccome l'ho anche resettata proprio perché non riuscivo a capire, però allora questo è il microfono. Poi il Mackie Gay, così al massimo, il Mackie Gay, e così è a 5. Così a 5. Non lo so. Ecco, vedi, a 5 va meglio che massimo. A 5 già mi sento un po' di medio-bassi. Più lo aumenti e più ti dà tonalità a tutte. Capito? Lasciala così a 5 che 5, perché da 5 adesso è a 3, vedi un po', non lo faccio, se no lo rimetto a 5. Ma no, faccio la 5, che bella modulazione. Però sento anche, non so se hai l'adattatore, cosa c'hai, qui intanto sento gracchiare qualcosa che gracchia. Aspetta, sto muovendo il capo del microfono. Sia quello, guarda. Ogni tanto sento qualcosa che gracchia, potrebbe essere il connettore non stretto bene, non lo so che sei combinato in TV, se hai fatto l'impatto all'adattatore a 8. Vabbè, c'era dietro lo spinotto del microfono, dietro era un po' svitato. Ah, questo è il RJ crimpato, magari qualche filo di quelli, ma con la voce non credo che cambi. Oh, cioè, magari da altri problemi, ma non credo che cambi la tonalità. No, così va bene, non la devi aumentare di più. Prova a mettere la 4, così la regoliamo definitivamente. Se cambia qualcosa, ecco, così a 4. Proprio sto andando sul 5, ecco, così è il 4 al massimo del 4. Lasciala fare così, è bella lo stesso, la sento più corposa, più l'aumenti e più tira tonalità a cupero. Ho capito, lasciavi dei vendi così invece. Oh, vediamo un po', guarda in questo modo con la cuffia del microfono, vedi un po'. La smorta un pochino. E cioè cosa, da aumentare il mic gain o che cosa? O lo lascio così sempre? No, lasciala così, la smorta un po'. E poi appena vi accutto, ma niente di che, è proprio invisibile, capito? Lasciala così, lui, va bene. È che non capisco che cosa gli abbia preso, perché ripeto, la radio l'ho anche resettata. E allora il microfono probabilmente. Il microfono cosa, lui? Io quegli abbinamenti li ho fatti tanti anni fa. Mi sono accorto che andava, però l'ICOM sì, ma non va come va col 60, non va come va con il K, capito? Si adatta bene, per carità, si adatta bene, però ti ripeto, se tu lì ci metti l'SM20, secondo me va molto meglio. Sì, già c'è un giorno portandomelo, guarda se aumenta la potenza invece. Aspetta che cambio scala nella Roswell. Guarda, vedi un po', 1, 2, 3, prova. Sì, già aumenta. E ti dà anche tonalità, ti smorta appena per gli acuti. Quindi usa una potenza intermedia. Allora, l'intermedia è questa. 5. Lasciala così. A 4, microfono e la potenza intermedia. Non è un problema per me, te lo dico, abito, non ce n'è più difficoltà, lo sai, no? Lo stacco domani mattina, te lo porto e lo provi, tanto io non lo sto usando, ce l'ho su 275H, ma sempre che vado 275H, non è che mi interessa il video di tanto. Sto cercando altre funzioni, ma non c'è niente nel menu, che regoli, vabbè, adesso mi sto finendo l'equalizzatore che avevo preso, così che poi vediamo un po' col microfono originale e con l'equalizzatore vediamo un po', dovrebbe cambiare dal giorno alla notte comunque. K. Ok, ritorniamo sul menu, affannato poi al bandisco, al menu precedente. Ok, allora, processore. No, lascialo per inserito. Io adesso lo stacco l'SM20. Domani mattina quando ti porto quella roba là, lo provi. Capito? Lo provi. Mi diceva meglio, io ti ripeto, 706 a casa l'ho usato poco, ma quando l'ho usato con l'SM20 e mai nessuno mi ha detto niente, capito? Perché il suo microfono evidentemente cambiano le tonalità, non lo so. Magari anche l'imparenta, non lo so, non ti dico balle, però il suo microfono, capito? Beh certo, sì che ICOM dovrebbe andare bene. bisogna provare, bisogna. Ma tu c'hai però l'attacca 8, non c'hai l'RG? No, io ho l'attacco 8, sì. Lì c'è l'attacco 8, lì avevo comprato per il 706 il suo adattatore dalla ICOM, capito? Mi avevo fatto mandare la Marcucci, allora c'era la Marcucci. Poi l'ho data, quando ho dato il 706, l'ho dato a Vanni dall'adattatore, Vanni CRQ Unifor, quello di Ordeo, capito? Perché tanto io non me ne facevo più niente, ne avevo la radio da poter inserire così, quando ho preso i due gemellini. No, perché c'è attacco RG, capito? Bisognerebbe che smonto lo spinotto, faccio un attacco provvisorio, facciamo le prove, capito? Tanto a te ti serviva il 60, mi avevi detto. E poi nel caso che va bene si può fare lo scambio. Il 60 va benissimo, non ce ne ho problemi. Datemi fare la connessione ICOM, anziché che ho ICOM 8, problemi non ce n'è. Non ce n'è problemi, per me un microfono vale l'altro, non me ne ha fatto di nulla, no. Ne avevo 4 di SM20, li ho tutti dati. Ne ho tenuto uno solo per il 275H, poi c'avevo l'altro per il 475H, c'avevo l'altro per il 756, perché proprio Marco mi ha detto che andava molto bene il microfono da palmo, e quindi avevo l'altro anche quello, li ho dati tutti. Allora, ti sto dicendo, domani mattina te lo porto, ti fai la connessione, fai ghiaccio di tablette. Lo fai sentire a me, se io ti dico che va bene, meglio del 60, mi cambio le connessioni da che vado a ICOM al 60, io mettevo 60 e tu ti tieni le SM20, qual è il problema? Allora facciamo così, dai, facciamo così, sì, allora questa oggi lo lascio così con l'RG, nel caso che poi domani mi dici che va bene, ti metto lo spinotto a 8 ICOM, va bene, via. Vabbè, un attimo qua, dai. Fai, non ce n'è problema, non nessun problema, fai quello che devi fare. Ecco. Ma chi è che stai chiamando, Franco? Io non sono Franco, chi sei? Ecco. Io non sono Franco, ti ho detto, chi sei, dove sei, con chi sei? Ecco. Io sono Claudio, sparviero da Sassari, con chi ho l'onore di parlare? Non ho capito, da dove stai trasmettendo? Da dove? Santo Lussurgiu, così hai detto? Santo Lussurgiu, così hai detto? Confermami, perché ti sento molto basso, Santiago 4, dimmi. Adesso ti sento meglio. Sei da Santo Lussurgiu, così hai detto? Esatto, Santiago 5, Radio 5, adesso mi arrivi. Come ti chiami? Io sono Claudio Sparviero da Sassari. Okay. Ehi, c'è Santo Lussurgiu. Santo Lussurgiu. Dovrebbe essere lì, Santo Lussurgiu indietro. Ma com'è? Bisogna sapere. Non lo so. Perché attaccato te l'ho preparato. Guarda qua, con questi passaggi, attenzione. La modulazione, guarda un po', guarda adesso se è cambiato qualcosa o si è peggiorato. Da così di nuovo, a così di nuovo, vedi un po' cosa succede. Nulla, non succede niente. Eh sì che non è neanche questo, compressore, ok. Non c'è altro in questa radio, non è che abbia un equalizzatore o chissà che cosa, capito? C'è questo, vedi un po', ma non credo che facendo così cambi qualcosa. No, non cambia niente, guarda, ti ho attaccato le SM20, domani ti trovi le SM20 e poi te lo dico io se va meglio o è uguale. Ma secondo me va meglio perché, ti ripeto, io lo usavo 706 con le SM20 ma nessuno mi ha detto niente. Sai che se qualcuno si accorge della mia modulazione me lo dice, usciva molto bene. L'ho già preparato, lo sto mettendo sopra la scatola di quello che devo portare domani mattina e ti vai ridurre gli tibiazzi. Se io ti dico che va bene, lasci quello e te lo tieni. Mi cambia le connessioni a 60, me le fai ICOM. Ti ripeto, per me un microfono vale l'altro, me ne ha fatti nulla. Prego. D'accordo, va bene, rimaniamo così, dai. Aspetta, dai che metto a posto qua cacciaviti e tutte le robe che stavo usando prima. Ma è importante che sei, che ti è piaciuto quello che abbiamo cambiato là. Ok. Sì. Appunto, dove mi voglio fare ci bravaggi, ma stai scherzando lui. Poi domani già ce ne parliamo in verticale, non ti preoccupare. Fai quello che devi fare, già sono qua, dai. Vediamo un po' se... Santo Lussurgio. Attenzione, Santo Lussurgio a Sassari, dove sei? Prego, prego. Dove sei? Sì, in macchina, sì, in moto, dove sei? In aereo, dove sei? Prego. Ma dove sei? Stai trasmettendo dal paese di Santo Lussurgio o sei sopra qualche montagna? Prego. Sopra, ho capito, ho capito. Va bene, va bene. Santo Lussurgio lo fai prima o dopo Macomè? Capito, Dio. Va bene, va bene. No, no, io non sono né vicino né lontano, io sono a Sassari. Va bene, va bene. Avanti Gianni, c'è Santo Lussurgio, ma sicuramente non ti arrivo. Sì, sì, lo sento io. Lo sento, come se lo sento. Attenzione, Santo Lussurgio, ascolti il doppio rum da Sassari, cambio. Cambio. Giovanni, hai sentito Sassari? Ti hanno chiamato. Manco col REM, sente già. No, poco fa io lo sentivo basso, ma lo sentivo bene, le parole le sentivo bene. Ma adesso non lo sento più nulla, per nulla. Prego. Io. Avanti, chi è l'altro? Giovannino Pedrusimula, buonasera, ben sentiti. Non ho capito, chi sei? Giovannino Pedrusimula, da Sindoli. Pedrusimula. Pedrusimula. Sì. E non lo stai trasmettendo? Sindoli. Ah, Sindoli. Forse era questo già che si sentito. Ciao Pedrusimula. Avanti già. No, era quello di Santo Lussurgio perché stavi parlando tu con lui, quindi quando ti rispondeva lo sentivi. Dimmi Giova. Sì, sì, sto parlando con Gianni doppio rum qua nella Sassari. Non lo senti per niente, nulla nulla. Sì, ma stai parlando con me? No, no, non ti sente già. Non sente niente. Santiago 5 mi stai arrivando Giovanni, Santiago 5 Radio 5. A me me l'hai già dato il segnale, 8 Radio 5. Va bene. Va bene, io sono, per farti capire, nella collinetta di Scala di Ciocca, salendo per andare a Osimo, diciamo, ecco la zona lì, se conosci Sassari, ok? Mi senti bene tu, sì. Mi hai fatto un becco, aspetta un attimo, cosa hai detto Giovanni? Mi senti bene tu. Aspetta, accendoli un attimo, cosa hai detto Giovanni? Sì, sì, salendo, la quattro corsie è praticamente quella che va su... Su in alto e poi scende a Scala di Ciocca, beh, hai detto bene, l'uscita vecchia di Sassari. Ok, aspetta un attimo Giovanni, che c'è un break qua a Sassari, intanto non ti sento, non so se succede un casino. Avanti break. Ciao Piero, buonasera, ben ascoltato. C'è Santo Lussurgio, non so se a te ti arriva, Daniel Durum, poi c'è un amico di Sennoli, Pedro Gimola, o Pedro Gimola, non lo so. Avanti, Doppio Rum. Pedro Gimola. Attenzione, ciao, chiodo arrugginito, buonasera, dai. Attenzione, Santo Lussurgio, ascolti il doppio rum, cambio. Allora, hai sentito Gianni Doppio Rum che ti ha chiamato? Non ti sente già, no? Chiodo, tu lo senti Santo Lussurgio? Ehi, Acra, dammi un controllo di Santiago per cortesia, che sto provando questo Magnum 980, vedere com'è. Stava ridendo l'amico. Cappa, vabbè, ci ha attaccato qualcosa. Volevo vedere se andava bene, se distorceva. Amico, attenzione l'amico. Sì, qua invece sì, un po' saturo, ma niente di che, già va bene lo stesso. Attacca, attacca. Io sono con 20 watt, 20, 40 monowatti. Vediamo un po', Sennoli, Pedrusimula. Perché stava ridendo l'amico quando ha detto il mio nominativo? Sì, allora, Pedrusimula. Pedrusimula cos'è? Prezzemolo. Prezzemolo, è l'altro amico perché stava ridendo. Cosa ne gioco io perché stava ridendo? Non so perché stava ridendo, chiedi o tu perché stava ridendo. Aspetta Giovanni un attimo, che non ti sente nessuno a Sassari. Solo la torre di controllo. Gianni ha detto Pedrusimula perché stavi ridendo. Io ridendo stavo. E tu stavi ridendo, che ti metti in carto un paio di schiaffi e ti rimani quando vuoi. No, è insolito, dai, per quello mi sono messo a ridere. Pedrusimula. E adesso abbiamo trovato. Guarda che diglielo, mi senti Gianni? Gianni, ma non lo senti? No. Non senti Sennoli, come ti dice anche lo studio, boh. Come non senti Sennoli, Gianni? Se va a Santiago Nuovo, è qua. Sentirò un paio di schiaffi, se li incarta e si riporta a casa. Diciamo forse lì in un fosso, boh. Non fosso, mica io con Sennoli non è che sia molto favorevole. Mi arriva Santiago e qua a te ti dovrebbe fare il minimo per 20. Lo sento io col tempolo. Prova, signori, avanti. Prego Gimolo, lo senti a Gianni? Oh, di due. Boh, già lo sentivo, ma non era certo forte. Questo non lo sento più. Avanti. Oh, Luca. Oh, Luca. No, sono entrato a destino, io sentivo, io c'ho il tempolo, non ho la verticale, certo. Beh, ti sto ritirando, ok, a dopo. Ma lo sentivo anch'io, ma era basso, non era certo di segnale alto. Ma basso quanto già? A me mi arrivava 9, come mai? Boh, la modulazione era bassa, non ho guardato il segnale, ma la modulazione, la radio era bassa. Vabbè, certo, non arrivava qua. Riprendi Chiodo, poi rilancio io a Giovanni da Santo Lucio, vediamo se c'è ancora. Guarda se mi sentite adesso. Hola amico. Lo so, io stavo provando a chiamare Santo Lucio, che ho risposto, come a volte chiama Daniel da Oristano, e rispondo. Capito? Sembrava. Per me quando chiamano così possono essere anche in macchina dentro il conduttore, cosa ne so. Sono talmente alti i segnali che non ci faccio neanche caso. Vediamo un po', Giovanni, Santo Lucio, ci sei ancora? Non senti nessuno da Sassari. Neanche chi ho arrugginito da muro, cioè è abbastanza favorevole per la tua zona. E adesso abbiamo volato. Cosa hai detto Giovanni? Sì, da Muros. Non lo senti per niente. Boh, molto strano. Qua sei Santiago 5 non picchi a 6, diciamo, dai. Picchi positivi. No, io non ero lineare attaccato, non c'è bisogno di lineare da questa posizione. Tornando con 140, infatti sono 20, 40 modulati. Beh certo, la zona è molto alta, se la conosci. A volte sento Daniel Doristano che arriva più di te, Santiago 7, figurati. Va bene Giovanni, non so cosa dirti, non ti sente nessuno a Sassari, se vuoi rimanere in ruota non devi parlare solo con me, però devi aspettare che ti rilancio, ok? Eccolo. Benissimo, allora un abbraccio anche a te, grazie per essere entrato, quando mi senti mi fa piacere che fai due chiacchiere, e purtroppo siamo in ruota e quindi se non ti ascoltano è un casino, ok? Grazie a te, ci sentiamo alle prossime, non ti preoccupare, io ti sento, quindi mi fa piacere scambiare due chiacchiere. Ti saluta quindi Claudio, Chiola Roginito da Muro, Gianni del Piume da Sassari, Luca da Sassari e tutti gli amici, ok? Ciao, grazie, alle prossime. A pagappa anche a te, vai Gianni. Cosa vado? Io non lo sento, comunque lo saluto cordialmente lo stesso, dai. Lo sento a tratti, a volte sì, a volte no. Avanti, Muros. Mi sentite? L'amico. Non è manca a paragone. Alla grande, molto più paccata la radio, più forte di segnale, più presente la radio. Manca a paragone, qua. Te l'ho già detto l'altra volta, questa è una radio eccezionale per te, quindi. Tutto il resto è noia, vai dopo il rumbo. Se c'ha, hai detto che ho da arrugginito con la radio. È chiarissima la modulazione, il segnale è buono lo stesso. È chiarissima. No, pensavo che fosse l'apparecchio che dava quei wattini, perché io c'ho il 3009, lo stesso c'ha 4 watt di uscita. Prima usciva con 12, però l'ho abbassato. Perché sennò non li puoi attaccare l'alfa libera. Gappa, ottimo, 6925 e la radio 5 perfetta, quindi meglio di così non si può andare, sai, io sei di fronte a me, quindi il segnale che ti do io è reale con questa radio, 925, ottimo, ieri 910, fate il conto, e la radio sì, era, poteva andare, ma questa è superiore, nettamente superiore, capito? Vediamo un po' se vuole entrare Luca, si è terminato, un attimino in bianco, lasciate, avanti. No, vai Gianni. Ehi, adesso qui adesso sto facendo girare un po' 980, perché era un po' di giorni fermo. E già va bene, dai, già va bene. Pensavo che la falima non se ne potesse attaccare, invece abbassandoli i watt ti dà 100 wattini, proprio pieni pieni. Buonasera, più forte del centro storico, buonasera a tutti. Ui, il profeta. Ciao, profeta, beh certo, c'è ragione anche io, è il mio che c'è il più forte. Eh si comincia, no? No, che c'è anche Antonio, ce ne sono, dai. Tutti forti lì, tutti vicini siete. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ti mando avanti Claudio D'Amuro, vai Claudio. Ehi, ciao Claudio, ricambio. Sì, ti ascolto, Santiago 4 e Radio 4, dai. Molto meglio delle altre volte. Ho acceso appena adesso, quindi niente, comunque saluto di circolare a tutti quanti e mandiamo avanti la torre di controllo. Via, la torre di controllo senza aerei in questo momento. Tutti gli aerei sono in pista. Tutti gli aerei sono in pista. Ho sentito nello spazio qualcuno che chiamava. Vediamo chi è, avanti? Avanti chi chiama sul canale 10? Niente da fare. Quando vuoi siamo qua. Riprendi Gianni. Tu ti senti tutti da lì perché sei in altura, sei in montagna, c'è un grido, che riprendi tutti quanti i paesi di ritorno. È una bella posizione. Ecco. Avanti. Pedro Simula. Avanti, chi sei? Papanino Pedro Simula, assegnoli. Pedro Simula sei? Pedro. Ciao Pedro Simula, buonasera, ben ascoltato. Claudio Sfarbiero a Sassari. Vediamo un po' se ti ha ascoltato Gianni Rubroffetta. Già, l'hai sentito a Pedro Simula? No, è in mezzo al QRM, comunque lo saluto, magari fagli a ponte. Buonasera, ma non riesco ad ascoltarlo. Buonasera, ma chi è quello che stava ridendo per il mio nominativo? Non ho capito. Chi è che stava ridendo per il mio nominativo? No, stava ridendo per il tuo nominativo. È certo che un nominativo un po' strano, un po' particolare, quindi ci sta anche la risata, ma perché offeso ti sei? No, è uno che si chiama il doppio rumo, cosa fa? Ride pure. Doppio rumo? Oia! Sì, Pedro Simula ti vuole. Pedro ti conosce anche a me, a tutti conosce. Cava, cava, e chi sei Pedro Simula? Fammi... Ma non sarà radioamatore quello che guida il camion, che guidava il camion della Sisa? No, è radioamatore, no. Ma è Pedro Simula si chiama, E vabbè, qua è 27 e poi magari è anche radioamatore. Comunque ce n'era uno che veniva dalla Sisa che era radioamatore della Dissina. Quello è Stefano. Ma dice che entra poco. Perché sta parlando? A parte il fatto non metta più a scena la metà Villa Cidro. Perché lavora con Nonna Isia, guida il camion di Nonna Isia, quindi si è trasferito a Villa Cidro, Stefano. Perché sta parlando? Vabbè, cappa, ognuno va dove c'è il lavoro, e poco di va, non c'è nessun problema. Anda bene, avanti di nuovo, chiodo arrugginito. Perché sta flipper. Perché sta ridendo? No, Luca sta mettendo a posto. Pedro Simula. Perché sta parlando? Ma Basilico ce n'è? Che cazzo devo ridere? Che rio? Io rio perché mi pare rio, ho capito. Posso ridere? Gianni doppio rum, perché sta parlando? Perché lo so io perché sto vedendo. Non ho capito. Vabbè. Pedro Simula. Avanti, vabbè, ciao, buonasera. Ciao, buonasera, ho sentito a te di sfuggita, a Gianni, a Claudio D'Amuro, se chi c'è poi? Gianni Rupert e Gianni Rubroffetta. Ok, dai, tutti salutati al 100%. Facciamo riprendere più lontano, avanti Muros. Ciao Cla, poi c'è Profetta, avanti il profeta, predicatore avanti a te. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato, dopo tanto, ogni tanto accendo e questa sera mi sono buttato nella mischia. E niente, dai, ti rilancio il mic. E anche io ogni tanto ti ho sentito di sfuggita, ma non mi potevo trattenere, ho acceso la radio qualche volta, ti ho sentito. Vediamo adesso il doppio rumo, avanti a te. Ehi, ciao Roberto, mi hai sentito anche a te. Per la cronaca non ho più numeri di nessuno perché ho cambiato il telefono, che mi si è rotto e quindi devo ripristinare tutti i numeri. Quando mi mandate uno squillo me li rimemorizzo. Ehi, che cellulare ti sei preso? Un bel cellulare. Già lo so, sono tutti belli, ma che cosa, che marca? Il Redmi Note Book 9 Pro. Quello cosa ce l'ho io, uguale. Xiaomi, sono i migliori telefonini qualità-prezzo, prestazioni eccellenti e prezzi bassi. Hanno superato Huawei, perché prima c'era Huawei, io poi sono passato già, ce l'ho già 2 anni io, Redmi Note 9. È molto bello come telefono, c'è anche una bella telecamera, una bella fotocamera. Cioè, mancava solo il telefono, Claudio. Lui c'è pure. Io ho cambiato lo stesso. Se per me l'avrei lasciato l'ovvero il tuo cassetto per quello che io odio il telefono, ma fu tenuto a me il telefono. Però da server, purtroppo, sono spese preventive che bisogna mettere in conto quando si sfascia, bisogna comprarsi. 5 anni fa c'era Santo Rossuccio, vabbè, si è entrato in ritardo. Arrivavo a Santiago quasi 8, radio 5, lui mi arrivava a segnare 5, però non sentiva nessuno, e non lo sentiva nessuno a Sassi. Chi c'era, non ho capito, fra? Giovanni da Santo Rossuccio. Boh, non lo so, io sono entrato quando non c'era più, forse. 5 volte fa è andato via. E avrei voluto vedere se qua riuscivo a prenderlo. Lui arrivava a Santiago 5 e io arrivavo a Santiago 8. Di queste sono proprio da fare qua nelle alture, non so, vabbè, capita l'occasione per vedere chi è il numero uno delle alture qua, io tuo manicomio compagno. Voi due siete un po' messi meglio per quelle zone lì sicuramente, dai. Ma anche io già mi do mattana pure io, certe zone le faccio bene anche io, dai. Ok, e vediamo un pochettino, facciamo riprendere Muros di nuovo, avanti Claudio, e a te. No, ti ascolto benissimo, perfettamente, sarà alle 9.15, la radio 5 è chiara, pulita. Va bene, no, lascia tutto così che sei a posto. A me arriva la 9.20, vabbè. È aumentata tantissimo quando ho tirato sull'antenna, tantissimo, prima era 9.15 scarso, adesso 9.20 pieno, con picchi quasi a 9.25. Avanti, Giannero Baffetta, vai per Giannero più Roma, cambio. Eia, sì, la conosco, l'avevo vista su internet, la radio di Chiodo. Sì, è molto simile al 2009. Bellina, come piace a me. Avanti, doppio. E poi Superstar c'hanno una radio che è favolosa, limpida, pulita. Allora, anche col microfono normale escono molto bene. Non ho tanto che anche, per dire, Marco Condor, quando mette Superstar, col microfono normale ha una radio bellissima, proprio pulita, perfetta. Sì, la radio quando vanno bene tutte, non c'è problema. Superstar ne ho avuto 3 io, ho avuto il 2-3009 e poi un 360, perché come ancora avete usato tutto, vanno bene le radio, vanno benissimo, K, avanti. E a me si ammazzendo il clam, mamma mia, ogni radio allucinata, fortissima. Cosa volevo dire? Devo chiedere qualcosa a Claudio. Mi ha mandato il messaggio coso, Salvatore Maestrale, ci saluta a tutti, perché ha detto, sa come stavo, mi ha mandato il messaggio, ha detto, proprio in radio sono in questo momento, ha salutato a tutti, ha detto che da oggi loro sono chiusi, non possono più muoversi da casa, solo salvo complicazioni, nel senso cose importanti, ti chiede il permesso al comune e ti fanno muovere, non puoi uscire di casa. Bello, veloci. Vabbè, sempre 140 sto usando. 140 invece 60, non ho toccato niente, mi tiene sotto la I, quindi a metà, di solito altri 140 lo devo tenere a manetta, questo evidentemente è stato un lusso. Potenza 20 watt, 40 moduati, niente di che, non c'ho niente da aumentare, niente da abbassare. E tra la stanza è un pochino più vuota e quindi sicuramente rimbomba di più. Avanti, Gianni Opium, riprendi, vai per Claudio. Sì, vabbè, da. Io questi tipi di apparecchi, tipo il Superstar, li avevo già adocchiati da un periodo, mi piacevano molto, anche se sono un po' squadrati come apparecchi, rimangono particolari, dai, sono squadrati, diciamo, però sono degli apparecchi che mi hanno mi sono sempre piaciuti, anche come mescolo di radio sono molto umili. Chiodo, facci sognare. No, già stai uscendo bene, poi anche la radio, considerando che sei attaccato, non satura, è pulita, va benissimo. Ok, avanti, va Gianni Lubrofetta, toccate il mic. Ehi, vi lascio un attimino, Bianco per me, torno tra qualche minuto, ok? Ehi, riprendi Claudio. Ehi, a me tolto è quel pomellino che ti ho detto. Ehi, è un bel duro, una colata Claudio incullato. No, assolutamente, l'ho detto che entrava duro, è entrato duro. O meglio che entri dura, eh? Bisogna toglierne, ce n'è un pezzettino dentro. Prova se va bene così, se no lo togliamo in officina. No, c'era Attac, là. Ho trovato Attac di lì dentro. Attac, non è buono Attac io. Questo Attac. Forse l'avrò messo a campana di matti, cioè per tenerlo fermo, ma Attac non lo uso io. Ma Attac è stato, se usi l'Attac deve cambiare il potenziometro poi. Ma ne è uscito? A Maragana nella Giugavado già ne è uscito, però. Ce ne ho trovato uno, lo sai che ho trovato il suo originale di quell'apparecchio, proprio il suo. Ma del mio o di quello del Barret? Del Barret sto parlando. E qui non te ne porto? No, non lo portarmi, va bene. Ma tu perché c'è il suo originale del Barret? No, anche lì ce n'era uno adattato lo stesso. Siccome non mi piaceva, gli ho messo quello lì, però quello lì è dell'Ino Hit, per quello. Siccome ha cambiato il frontalino è uscita una radio spettacolare, o qua. È uscita spettacolare quell'Ino Hit. Non l'ha fatta Luca, ma solo la pazienza sua ci è voluta, solo la pazienza sua, perché c'era smontare tutto completamente per mettere il frontalino nuovo, e quindi sto mettendo i pomellini suoi originali, quelli cromati, perché li avevo tolti, li avevo messi quelli dell'altra radio, capito? Adesso la metto con i suoi, e un pomellino ce l'hai tu, quindi quello lì domani mattina me lo prendo già e lascialo così, vabbè, già entra lo stesso, non c'è problema, tanto c'è le lamelline, capito? Vabbè, mi ha fatto vedere il video, mi ha mandato il video, l'ha fatta a pezzettini con la radio. Che cosa sto dicendo che l'ha fatta a pezzettini? Ma me l'aveva detto Gianni, il padre di Claudio, che me l'ha fatta tutta, fatta bene, con calma, perché c'è da attaccare tutto, tutti i potenziometri, lo Smith, l'orologio, c'è da attaccare tutto per mettere il frontalino, ma è uscita, cazzo bellissima qua, ma bella veramente, nuova, riprendi qua. Sì, poi adesso è col frontalino nuovo, tutte le scritte, fatte anche lui, molto bella la venuta, ma l'ha dovuta tutta fare a pezzi. Abbiamo dato video mentre stavo lavorando, tutto, capito, seguite il video. È uscita veramente molto bella. E adesso la rimettiamo in funzione, la metto qua, vicino al K, e così ogni tanto la facciamo andare. Avanti, doppio. Doppio room, sempre il telefono così. Vabbè, riprendi tu, vabbè, dai. E poi domani mattina me lo dai quel pomellino. Così lo attacco, intanto per andare da Luca, che domani parte anche la curvatore, la T230, venduto anche quello. Così lo scendo, lo spedisce e mi ritiro la radio. Ma dimmi una cosa, ma i pomellini, adesso ho visto la foto, mi ha mandato Luca, i pomellini dell'Ino Hit, tu li stai togliendo tutti, sono neri, così Sì, li ho messo quelli di una radio che avevo, capito? Perché siccome me ne mancava uno, stavo aspettando che Gianni appunto mi desse tutta l'attrezzatura per metterlo in sesto, e quindi li ho messo quelli lì, adesso quelli li tolgo e li metto nell'altra radio, quelli sono delle Elbex. Ah, ecco, adesso mi ha mandato anche l'altro con gli altri pomellini, cioè sempre pomellini, no? Mettimene, portami uno di quelli neri, ma c'era già lì la radio tu? No, la radio c'era ancora Luca, l'ha terminata poco fa, da stamattina che l'ho portata. Uno di quelli neri, mettimelo da parte, là. Ossia che quello mio dovrebbe andare bene, non l'ho infilato, però come forma è uguale a quelli, ma anche questi tuoi sembrano uguali. No, basta che ci abbia il foro quello normale, dai. Che non abbia lamelline entrano tutti, comunque te lo porto quello che c'era prima, capito? Te lo porto e glielo metti, anche quello lì è nero, quello che giù è nero con la gomma, mi capito, gommato. Ehi, infatti questo che sto guardando nell'Ino Hit sono neri e sono tagliati, diciamo, non sono proprio tondi, sono schiacciati, e l'originale del Barret è come questo, io ne ho trovato uno in mezzo alla roba vecchia che sembra molto simile al suo originale, ma eventualmente se ti capita mettimene da parte uno di questi dell'Ino Hit. No, ti do il suo allora, ti do il suo, quello che io ho messo, quello che io ho messo lì nell'Inuit, che è quello schiacciato, no? Piatto, quello lì è il suo originale, che ho quello suo originale. Ok, va bene, va benissimo. E tu mi hai detto non ti serve, ti do il suo originale, capito? E lì ci ho messo quello cromato dell'Inuit che mi sembrava più bellino. E invece adesso mi serve per mettere nell'Inuit. Capito, mi hai già tirato su, non ti preoccupare, domani mattina troppo. Prima vado la Lucca, mi ritiro quello io e poi salendo te lo porto. Ah, se deve andare a Lucca, di là gli facciamo fare quelle connessioni, cosa dice? Devo passare da te. Devo passare prima da te, ma non so che la scendo a Lucca, se scendo dopo che porto il cane, adesso lo devo sentire dopo. Perché non ho tempo di niente, a saldare due fili cagati non ne ho di tempo, sono sempre impegnato, mi adesso ho una pausa e poi ci accendo la radio, che non ho tempo di nulla. Vabbè, io ho tempo ne ho da vendere, ma non ho la capacità di farlo. In questi giorni non sto bene, quindi per fare quel lavoro al frontalino neanche a parlarne. Non è un lavoro che posso fare io, no, non ci vedo, l'ho fatto con la massima attenzione, ti ripeto, c'ho ancora qualche vignetta di febbre, mi ho già attaccato il riscaldamento, vediamo un cazzo, ma veramente non si può fare sopra la finestra, se no adesso chiudo il termosifone perché la temperatura sta salendo, io già ho caldo, quindi va bene, ma faccio così, domani mattina io, vabbè, sento a Lucca prima, dai, poi non c'è problema, tu già sei in officina. Sento a Lucca e vedo a che ora posso scendere. Se scendo all'ora che sono sceso stamattina, passo da te, me la metto in macchina, la radio, capito? E poi quando scendo voglio la volta e faccio fare le connessioni. Eia, avanti, chi c'era? Chi tocca? Doppio rum, vediamo se è rientrato. Eia, sono rientrato e stavo cambiando il radio. Oh, là, è bene, hai messo le connessioni col microfono. In quale? No, non l'ho fatto ancora, perché ho dato priorità all'Inuit. Ho dato priorità all'Inuit già, intanto non c'è manco il connettore, lo posso la fusare, prendere il connettore e poi glielo passo a Luca e me lo faccio fare. Era per vedere come andava. Ma dovrebbe andare bene anche se c'è la quarantina d'anni. Il più deciso è meglio andare, in Galina lui che fa buon brodo già. Va bene. Non ti preoccupare, poi te lo faccio sentire. Avanti, Chioro. No, aspetta, toccava a cosa, a Gianni Ubrofetta. Gianni, a te. Eccomi, sono rientrato. Mi sono perso l'argomento attuale, boh, non so di cosa sentiva Videli. Di radio vecchia e vintage, dai. Anche io ne ho una Inuit bellina, l'ho presa a buon prezzo, una stazione base, con microfono su originale, però volevamo provare a menare un altro, no? Che marca è quello che mi ha fatto apprezzare qua, a provare, che mi ha combinamento. Quello è della Gain, con il microfono a tavola originale Gain. Fatta Gain. Come si chiama? Vogliamo provarlo con quel microfono amplificato. La connessione è uguale, quindi c'è solo invertire un filo. Ok. No, Claudio, ne vedo, ogni giorno ne stai mettendo una di radio, Claudio D'Amuro se parlo. Ne avrei, magari ne hai già messo, almeno una quindicina di radio. Sì, no, sono contento, dai, è bello poi vedere radio di vecchio stampo, di vecchia generazione. Poi tutto funziona, ho visto quelle funzionanti, una bella ricezione, ci siamo sentiti, come ti ho detto ieri, mi sono sentito io insieme a qualcuno di un altro che c'era qua in frequenza, è stato carino sentirsi, perché normalmente io parlo, però non mi sento, un paio di volte solo mi sono sentito in dei video che mi hanno mandato per farmi vedere delle prove. Infatti quando Claudio provi quel coso, quel buon 23 canali, lo provi tu e voglio vedere come esce. Sai come facevo io, ti metti col baracchino, metti sul canale 10, tieni la portante calcata e fai andare il warfare del ricevitore, te la metti in isonda. Una volta che in isonda, allora sei a posto. Sì, io lo conosco. Lo conosco, non c'è problema. E fai isonda così, capito? Fischia, parla, perché essendo decametrico è sempre spostato, sempre leggermente spostato, capito? Fai zonda così, una volta che fai zonda ti metti le cuffie e allora puoi attaccarci l'antenna e ricevere bene. Non fare zonda con l'antenna attaccata, capito? Farlo senza antenna con un carico fittizio o qualcosa del genere perché puoi fare danno. Avanti, doppio rum. Eia, adesso tutti quanti di nuovo con Radio Vintage. Siamo riesumando tutte le radio vintage. Questo qual è l'MB5 già? No, questo qua è Sadelta. Ah, vabbè, hai visto, Sadelta col coso, con il col Galaxy, va bene, occhio anche la truppa. No, beh, io non c'ho più poco, la scrivania è molto ristretta, quindi mi sono messo la radio HF e le VLU e basta. Adesso lo proverò nuovamente quella l'Inuit, però tutti i vintage dove c'è l'armadio, già non voglio più avere niente per le pieghe. Avanti, il profetto. Eia, qua ce n'è una e basta e avanza. Oioia, capitina, cos'è che volevo dire? Mi sfugge, io ci sono. Sono povero di argomenti, dai, e quindi rilancio la palla, dai. Avanti, Robè. Che erano già bello, dai, sentire per queste radio, le modulazioni, almeno faccio mai confronti. No, sto dicendo, non Claudio tu di Muro, su Claudio l'altro, detto, lo prende, se lo porta da Luca, magari gli fa quelle connessioni, lo porta a casa sua e me lo fa sentire con la voce sua, quell'iGain, quel microfono iGain, così tanto per vedere come funziona. Ho sentito il ricevitore, quella di Craft, che avevamo fatto quello scambio, Claudio di Muro, quello funziona bene, una bella ricezione, me l'avevate fatto vedere, che avevate sistemato qualche cosina. E dai, io mi devo lasciare, sono delle voci, devo fare cosa. Salutate Claudio Davuro, su Giovanni, Gianni Rubrofretta, Doppio Room e Claudio Torre di Controllo. Dai, ci sentiamo un altro momento, io vado. Credo noi già ci sentiamo domani. Ciao ciao. Ciao Robbe, ci sentiamo, buona serata. Ciao ciao Robbe, già ci vediamo domani mattina. Vai Rubrofretta. Ciao Roberto, alle prossime, dai, ci aggiorniamo. Riprendi. Vai Muro, kappa, va bene. Beh già, ci ho dato abbastanza di quei ricevitori, linee, anche con la mia ricraft, tuo padre molto bella, col Summercamp Edition, quello è un grandissimo ricevitore, quelle radio lì che gli ho dato io sono poi la sua preferita, il console. C'è un po' che è dietro attaccata a quel console, ma non molla, quella non si tocca, vai Doppio Room. Io non me lo ricordo nemmeno come questo console. A me mi piaceva quello che c'aveva anche Mario Masi, come si chiama, quello lì era un bel bello. Mi piaceva molto quella radio, quella vintage, non mi ricordo come si chiama, però l'ho vista una volta e mi è piaciuta molto. Mario Mao, non Mario Mace. Già, un cazzo ogni tanto cadi. Gianni. Sono al telefono. Mi ha dato il gatto grave. Mario Mace non era mai visto di console. Quello era di Mario Mao, la buona è Mario Mao. Me l'aveva fatto a Valeria Maria, ma era molto bella quella radio, console 1. Gappa. Va bene. Avanti Claudiere, quindi. Sono belle quelle, dalle radio poi escono benissimo, a parte il fatto che sono molto rare, soprattutto nel primo, il console 1 è molto molto raro, moltissimo, infatti ho fatto male perché so che lui è amante di queste cose, io non me ne facevo più niente, avevo la casa piena di radio vintage, quindi mi sono tenuto quelle principali, però il console 1 è molto molto raro da trovare, capito? Trovi più il console 2 che il console 1, e poi una bella bestiolina, una bella radio, bella cassonata, tutto in legno, capito? Avanti, un buffet. Eia, tutta roba buona. Adesso, che la marca di quest'ultima radio che hai nominato qua, a parte il nome della radio, che marca è? Mega Radio, dico Bonsole. Kappa. Il console primo, non c'è che non lo so chi l'ha fatto. Chi l'ha fatto Gianni? Ma ho Claudio il console. Cosa c'è scritto? Che marca è? Eia, sì, dopo magari su internet gli do uno sguardo. State nominando un sacco di roba, quindi adesso mi avete messo la curiosità, dai. È doppio, è in bassa, quindi avanti Claudio. Sì, l'SB, infatti non mi ricordo. Sì, sono rarissimi io già, sono molto rare, sono radio di data del 70, quello era lì, capito, 68, 69, 70. Sono radio eccezionali.